Quando Davide e i suoi uomini giunsero a Ziglag al terzo giorno, gli Amaleciti avevano fatto razzie nel Negeb e a Ziglag. Avevano distrutto Ziglag dandola alle fiamme. Avevano fatto prigioniere tutte le donne e quanti vi erano, dal più piccolo al più grande. Non avevano ucciso nessuno, ma li avevano condotti via riprendendo la loro strada. Davide giunse dunque con i suoi uomini alla città. Ecco, essa era incenerita dal fuoco. Le loro donne, i loro figli e le loro figlie erano stati fatti prigionieri. Allora Davide e la truppa che era con lui levarono la loro voce in pianto, finché non ebbero più in sé forza di piangere. Anche le due mogli di Davide erano state fatte prigioniere, Achinoam di Israel e Abigail, già moglie di Nabal, da Carmel. Davide si trovò in grande angustia, perché la truppa parlava di lapidarlo. Tutti avevano l'animo esasperato, ognuno per i propri figli e le proprie figlie. Ma Davide si aggrappò al Signore, suo Dio. Davide disse al sacerdote Ebiatar, figlio di Achimelech, «Portami l'efod». Ebiatar portò l'efod a Davide. Davide consultò il Signore e domandò, «Devo inseguire quella banda? La raggiungerò?» Gli rispose, «Inseguila, la raggiungerai e libererai i prigionieri». Davide partì con i 600 uomini che aveva e giunse fino al torrente di Besor, ma un gruppo si fermò. Davide proseguì l'inseguimento con 400 uomini, mentre 200 si erano fermati così affaticati da non poter attraversare il torrente di Besor. Trovarono un egiziano nella steppa e lo condussero a Davide. Gli dettero pane da mangiare, gli fecero bere dell'acqua e gli offrirono una tortella di fichi secchi con due grappoli di uva passa. Egli mangiò e si sentì rivivere, perché non aveva preso cibo e bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Davide gli domandò, «A chi appartieni e di dove sei?» Rispose, «Io sono un giovane egiziano, schiavo di una amalecita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché mi sono ammalato 3 giorni fa. Abbiamo fatto razzie nel Negeb dei Cretei, in quello di Giuda e nel Negeb di Caleb, e abbiamo dato fuoco a Ziglag». Davide gli domandò, «Mi vuoi guidare verso quella banda?» Gli rispose, «Giurami per Dio che non mi farai morire e non mi consegnerai al mio padrone, e io ti guiderò verso quella banda». E ve lo guidò. Ed eccoli sparpagliati su tutta l'estensione della regione. Mangiavano, bevevano e facevano festa per tutta la grande preda che avevano asportato dalla terra dei Filistei e dalla terra di Giuda. Davide li batté dall'alba fino alla sera del giorno seguente. Non se ne salvò nessuno, se non 400 giovani, i quali, montati sui cammelli, si dettero alla fuga. Davide salvò tutto quello che Amalek aveva preso, anche le sue due mogli. Non mancò loro niente, dal più piccolo al più grande, dai figli alle figlie, dalla preda fino a tutto quello che si erano preso. Davide recuperò tutto. Davide prese tutto il gregge e l'armento. Condussero davanti a lui quel bestiame dicendo, «Questa è preda di Davide». Poi Davide arrivò dai 200 uomini che erano troppo spossati per seguire Davide e furono lasciati al torrente di Besor. Questi uscirono incontro a Davide e alla truppa che era con lui. Allora Davide si avvicinò con la truppa e domandò loro se stessero bene. Intanto alcuni cattivi e perversi individui tra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire, «Poiché non sono venuti con noi, non daremo niente della preda che abbiamo recuperato, eccetto la moglie e i figli di ciascuno. Li conducano via e se ne vadano». Davide rispose, «Non fate così, fratelli miei, con quello che il Signore ci ha dato. ci ha protetti e ha consegnato in nostro potere quella banda venuta contro di noi. Chi vi darà ascolto in questa proposta? Perché quale la parte di chi scende in battaglia, tale la parte di chi rimane presso i bagagli. Faranno le parti insieme. Da quel giorno in poi impose questa decisione come legge e norma a Israele fino ad oggi. Quando Davide rientrò a Ziglag, mandò parte della preda agli anziani di Giuda, suoi amici, dicendo: «Eccovi una benedizione, parte della preda dei nemici del Signore, a quelli di Betel, a quelli di Rama nel Negeb, a quelli di Yattir, a quelli di Aroer, a quelli di Sifmot, a quelli di Estemoa, a quelli di Rakal, a quelli delle città degli Ierachmeeliti, a quelli delle città dei Keniti, a quelli di Corma, a quelli di Borasan, a quelli di Atak, a quelli di Hebron e a tutte le località dove Davide era andato vagando con i suoi uomini».